verso il voto. Un saluto agli ascoltatori di Radio 24. Ancora l'Italia al centro di questa campagna elettorale. Berlusconi insiste, l'offerta Air France verrà respinta, la cordata italiana c'è e arriverà tra 3-4 settimane. Se c'è cordata italiana va benissimo, replica Veltroni, ma che venga fuori tra 48 ore. Uno scontro a distanza sui tempi, dunque, tra i due candidati premier, ma cominciamo dal leader del Popolo della Libertà, Berlusconi. Adesso sono in campo io e questa cosa si fa. Occorre che il governo non faccia colpi di testa e che ci dia la possibilità di operare con i tempi necessari dopo che ha dato a Air France 5 mesi di tempo per conoscere i conti di Alitalia, che oggi noi non conosciamo. Ma Air France la risposta gliela dà già il prossimo Presidente del Consiglio. È un chiaro e secco no, non contro la Francia, ma contro le condizioni irricevibili. Il Cavaliere ha ribadito inoltre che Banca Intesa non è ancora uscita dalla partita all'Italia. Intesa ha detto che sul tavolo non aveva nulla di concreto, ma non poteva averlo perché da 5 mesi il governo ha trattato solo con Air France. Posso assicurare che invece Intesa è ancora disponibile ad aiutare un serio gruppo che presenti un serio piano industriale. La posizione di Berlusconi è condivisa dalla Lega, Roberto Calderoli. Io credo che il lancio fatto da Berlusconi rispetto a una cordata di imprenditori italiani che possano salvare la compagnia di bandiera e salvare l'hub di Malpensa sia la soluzione ideale. Se c'è una cordata alternativa si manifesti, risponde dal Partito Democratico Walter Veltroni. Se c'è una cordata italiana, benissimo, non si aspettava altro da mesi. È un po' strano che si formi proprio in questa settimana, tuttavia va benissimo, però venga fuori, in 48 ore venga fuori, non il 14 aprile che poi magari non viene fuori il 14 aprile, in 48 ore venga fuori e dica che vuole prendere all'Italia, perché altrimenti noi ci troveremo in questa condizione, non c'è la cordata italiana. Air France si mette fuori e all'Italia va a gambe per aria. Ma Veltroni avverte, niente giochi su migliaia di lavoratori che rischiano il posto di lavoro. È una raccomandazione a tutti, cioè evitare di mettere all'Italia nel tritacarne di una campagna elettorale. Stiamo parlando del destino non solo della compagnia nazionale, ma di migliaia e migliaia di lavoratori di Alitalia, di Malpensa, di Fiumicino, dell'indotto. E su Alitalia interviene anche il vice premier e candidato sindaco di Roma Rutelli, con un duro affondo a Berlusconi. Un tempo si regalavano ai figli i trenini, ora le compagnie aeree. Il leader del PDL, dice Rutelli, vuole anche i soldi dal governo e chiede il prestito ponte. Quanto agli altri partiti, sulla vicenda l'Italia prevalgono i dubbi e le richieste di salvaguardia dei posti di lavoro e di maggior chiarezza sul futuro della compagnia. Il leader dell'Unione di Centro, Casini. Per fortuna di Alitalia c'è il signor Silvio Berlusconi, che impiegherà tutto il suo talento per risolvere un problema che altri non hanno saputo risolvere. Non è di oggi la dichiarazione, è del 17 febbraio del 2004. Dopo 4 anni sempre le stesse cose. Basta buffonate, lo dico con sincerità, la politica non può prendere in giro i lavoratori e gli italiani, c'è bisogno di serietà. Attacca Berlusconi anche il leader dell'Italia dei Valori, Di Pietro. Annunciando la sua discesa in campo, dice Berlusconi fa insider trading e gioca con l'economia. Dico che è un bluff pazzesco, soprattutto è illegittimo sul piano europeo, perché l'Unione Europea non permette aiuti di Stato e quando si fa un prestito si deve sapere chi lo restituisce. Prende le distanze da entrambi gli schieramenti la sinistra arcobaleno, Franco Giordano e Pecoraro Scanio. Noi non tifiamo per nessuno, noi tifiamo per il rilancio dell'azienda e per il mantenimento dei livelli occupazionali. Io penso che su una vicenda drammatica come quella dell'Alitalia non è giusto farci campagna elettorale. Oggi bisogna impegnarsi per ottenere una risposta vera alle preoccupazioni di migliaia e migliaia di lavoratori e a una grande azienda italiana. E chiudiamo questa pagina politica con il richiamo dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. È necessario un immediato riequilibrio dell'informazione politica tra tutte le liste che partecipano alla campagna elettorale, ha detto l'AGCOM, secondo cui in particolare nei telegiornali c'è un forte squilibrio che favorisce le formazioni maggiori rispetto a quelle minori e il Popolo della Libertà rispetto al Partito Democratico. I dati raccolti dall'AGCOM si riferiscono ad un monitoraggio che ha riguardato sia i notiziari della RAI sia quelli delle televisioni private. Verso il voto termina qui, un saluto ad Alessandra Schepisi.